Já že se... Ale to bude stejně volání, protože... Chiace se è un programma che serve per fare dei database. E quindi è formato di vari elementi. Ripasso proprio velocissimo per chi non c'era, poi passo oltre. Grazie. Quindi tabelle, query, maschere, report, macro e moduli. Noi in questo corso vedremo questi, quindi tabelle, query, macro, master e report. Non vedremo i moduli, che è programmazione. Le tabelle abbiamo detto essere quindi sono i contenitori di informazioni, le maschere servono per scrivere, modificare, aggiungere dati dove? Nelle tabelle. Le query servono per estrapolare i dati. I report per stampare, che sono delle anteprime di stampa, perché mi permettono di organizzare la stampa in maniera senza dubbio molto più efficiente che non è in Excel. Ed infine le macro che servono per automatizzare. Scusi, una domanda, prendendo di conto che il concetto era appoggiato male. In quell'esempio in cui la macro del nostro con l'automobile, la maschera, che cosa mi riferisce essere? La maschera in realtà nell'esempio dell'automobile di ieri della volta scorsa non c'era. La maschera servirà all'operatore per magari andare a aggiungere i dati grafici di colui che ha il credito. Infatti perché hai detto macro? No, la maschera non c'è. Grazie. Vabbè. Così evitiamo di ridere stasera, cominciamo. Ok signori, quindi ripeto, poi questi concetti qua ci sono nella registrazione che manderò, eventualmente chi non ha potuto seguire la scorsa settimana se la sentirà, se ha poi avrà dei dubbi fra due settimane, fra la prossima settimana me ne chiederò. Questo corso qua signori è un corso piuttosto intenso barra intensivo. Il consiglio è quello di cercare di mancare il meno possibile, perché tutte le volte che si manca una lezione si parlano dei concetti. Se si parlano dei concetti si fa fatica a capire i concetti successivi. Quindi se vi posso dare un consiglio, non obbligo nessuno, ci mancherebbe, però cercare di mancare veramente il meno del possibile. Ok. Ora, rispetto a quello che abbiamo visto nella lezione scorsa, facciamo un passo in più. E parliamo esplicitamente. Allora, la volta scorsa abbiamo approfondito il discorso tabelle. Dico bene? Sì. Allora, le tabelle, abbiamo detto, anche qua per chi non c'era la volta scorsa perché è importante, sono proprio delle tabelle, stile quelle di Excel, dove le colonne si chiamano campi e le righe si chiamano record. Tra i vari campi ce n'è uno in particolare che si chiama chiave primaria. La chiave primaria è univoca, questa vuole essere una chiave, ne sarei giù. La chiave primaria è un campo univoco, giusto? Quindi vuol dire che non ci possono essere due record con lo stesso campo. Ed è il campo che identifica il record all'interno della tabella. Abbiamo fatto l'esempio del codice fiscale, delle targhe per quanto riguarda i veicoli, del conto corrente in banca, per cui quando noi andiamo in banca, prima quello che fa l'operatore ci chiede il conto corrente e non come ci chiediamo, perché? Perché quella è la chiave primaria all'interno del loro database. Ora, una volta approfondito il discorso tabelle, andiamo invece ad approfondire, sarà l'argomento di questa sera, il discorso query. Quindi le query come cuore pulsante del nostro database, perché ci permettono di estrarre informazioni. Professore, come dicevo la lezione scorsa, lo ripeto per chi non c'era la settimana scorsa, queste lezioni sono proprio da studiare, sono proprio tutti i concetti che poi vedremo praticamente sul computer, però mi sono necessari poi per andare in maniera un pochino più fluida quando li vedranno sul computer. Ora le query. Di query ne esistono diverse tipologie. Esistono le query di selezione e le query di comando. Queste due tipologie di query si dividono poi in sottotipologie. Ora non è che poi uno deve sapere la tipologia, comando, controcomando, selezione, però deve avere un attimino il quadro di che cosa fa. Allora, le query di selezione tirano fuori i dati. Quindi quando io faccio una query di selezione, tiro fuori i dati. Cosa vuol dire che tiro fuori i dati? Vuol dire che io non faccio niente sul database, non lo modifico. Allora tiro fuori una parte. Faccio una ricerca. Però il concetto qual è? Che non faccio danni sul database, no, non posso fare danno di alcun tipo sul database. Lo farò una ricerca. Chiaro, il danno lo posso fare se tiro fuori un'informazione che penso che abbia un senso, ma in realtà ne ha un altro. E quello non sul danno, non per me. Ma sul database la selezione non fa nulla se non tirare fuori informazioni. E quelli di comando invece agiscono sul database. Quindi effettuano delle trasformazioni sul database. Tipicamente di quelli di comando se ne fa una ogni 500.000 di selezioni. Allora iniziamo da quelli di comando perché sono più semplici da comprendere. Allora, tra le query di comando ci sono la query di creazione tabella. Come dice la parola stessa, la query di creazione tabella che farà? Creerà un'altra tabella. Sarà la query di aggiornamento perché la query di aggiornamento è una di quelle cose che mi fa sempre sorridere quando parlo con gli utilizzatori di Excel, perché gli utilizzatori di Excel quando vogliono cambiare qualcosa all'interno di un foglio iniziano a fare i filtri. Iniziano a fare i filtri e cercano, penso, tutte le volte che c'è scritto via Roma anziché via Vatte la Pesca. E poi iniziano ad ingegnarsi nelle maniere più artistiche per cambiare magari via Roma in via Pinco Pallino. Perché se c'è scritto via Roma 15 anziché via Roma 12, magari si mettono a cambiare tutta la manina. A me sta cosa viene tanto rima, è simpaticissima. In un file di Access, che il tuo se lo fare, ma non vuole essere un insulto, no. Trovo veramente esilarante di non pensare che ci sarà un modo per farlo in automatico. Ecco, in Access esiste una query, si chiama query di aggiornamento, dove io gli dico su tutta questa colonna mia Roma sostituisce con via Pinco Pallino. E lui automaticamente va ad aggiornare tutta la. Ovvio che c'è molto la medaglia, perché se io invece di via Roma scrivo via Rom, una volta tutte via Roma, Romina, Rometta, Romaccia, me le trasforma in via Materapesta. Per cui devo essere molto preciso, cosa che magari manualmente posso andare anche un po' più in maniera raffazzonata, perché me li guardo di caso in caso. Quindi c'è il risvolto della medaglia. D'altro canto, quando si elaborano magari centinaia di migliaia di dati e andarsene a mettere uno per volta a manina, divento vecchio, mentre invece con una query di aggiornamento lo faccio in una frazione di secondo. Sì. Quindi la query di aggiornamento serve per, come dice la parola stessa, aggiornare i dati. E capite che si chiama query di comando perché effettua proprio delle modifiche sul database, cioè vado a cambiare un dato, vado a cambiare una colonna, vado. Poi ci sono le query di eliminazione, ora di query di eliminazione solitamente nei database non si usano mai, proprio perché il database per sua natura è un qualcosa che cresce e non decresce mai. Informazione oggi voi sapete che valgono più che non moltissime altre cose, no? E effettivamente si tendono a mantenersi. Però eventualmente in alcuni casi, sebbene sporadici, si può fare una query di eliminazione. La query di eliminazione è anche una query di comando, nel senso che elimina dei dati, ma che cosa in particolar modo? Dei record. Elimina dei record. Perché non i campi? Bravissimo. Perché i campi io li cambio dalla struttura della tabella. Ma solitamente io vado, posso anche eliminare un campo, ma non lo faccio con la query di eliminazione. L'eliminazione mi dice di tutti i conti correnti vanno a cancellare quelli che iniziano con C. Ma non di tutti i conti correnti vanno a togliere il cognome. Proprio concettualmente elimina i record e non le colonne. Quindi aggiornamento, eliminazione, creazione della tabella. E queste sono le principali. Passiamo invece, ora di comando veramente se ne fanno tipicamente relativamente poche. Ah, c'è un'altra interessante, che è la query di accodamento. La query di accodamento è una query che vi farò vedere quando si importano i file da Excel. Perché una delle cose che vi farò vedere già forse nella prossima lezione sarà la possibilità di importare un file da Excel. Quindi io ho un file in Excel, lo voglio portare dentro, faccio una query di accodamento. Quindi mega tabellone in Access, accodo sotto 1, 2, 3, 4 fogli di Excel per fare un'unica tabella. Prego. Si possono solo importare file di Excel o anche altri tipi di file? Altri tipi di file. PDF no. No, no, PDF no, si possono importare delle tabelle di Word, sebbene con tanta difficoltà. È anche vero che le tabelle di Word solitamente non hanno gran senso di esistere, se non magari delle tabelle relativamente piccole, perché Word non è fatto per fare tabelle. Quindi le tabelle che ci sono solitamente piccole, uno fa prima ricopiarsele in Excel o fare copia e incolla su Excel e poi se le importa in Access. PDF no. PDF no, ma perché proprio il PDF per sua natura è come se fosse un'immagine, per cui in realtà non vi si riesce a fare. Si possono viceversa importare delle tabelle da file CSV, che è molto più allettante come possibilità, io batterò molto sui CSV. I CSV per intenderci sono dei file di testo. Hanno lo svantaggio di essere un pochino limitativi nella quantità di dati che si possono inserire, perché i CSV, ad esempio, che ne so, il simbolo di euro non lo posso mettere. Hanno l'enorme vantaggio di essere, uno, universali. Quindi, indipendentemente dal sistema che si usi, che può essere Access, può essere un database in SQL Server, il CSV viene letto e scritto da tutti. E indipendentemente, altra cosa molto importante, dal sistema operativo. Perché io lo posso mettere su una S400, su un Linux, su un Windows, e il CSV me lo leggono tutti. Quindi io batterò tanto sul formato CSV. E poi puoi importare o esportare anche direttamente su un server SQL. Una delle cose che mi piacerebbe fare quest'anno, se ne avremo il tempo, se riusciremo ad andare a passo abbastanza spedito, sarà quello di andarvi a parlare di server SQL, quindi o di un MySQL o di un SQLite. Peraltro con alcuni amici sto battendo da tempo per fargli fare su SQLite, ma non ci riesco per mancanza di tempo. L'aver messo accodamento schematicamente al di sopra? No, no, è solo perché non mi stava sotto, non ce lo voglio abbassare. Grazie. Ok, quindi queste sono le query di comando. Poi passiamo alle query di selezione. Allora, concettualmente è chiaro, non cosa servono le varie query, signori. In realtà concettualmente non sono particolarmente complesse. Viceversa, le query di selezione sono un pochino più impegnative. Allora, anche qua poi quando le faremo sulla pratica vedrete che tutte queste cose vi risulteranno molto più chiare, molto più semplici di quello che potrebbero sembrare. Però, così come ho detto per i byte, kilobyte e megabyte nel primo corso, consiglio anche voi, fatevi uno schemino e vi mettete vicino al comodino e lo ripetete prima o dopo di essersi lavati i denti. Chiaro che moglie e marito, qua tra byte e query, la sera ne hanno da parlare. Ok. Allora, query di selezione. Selezione. E query di selezione, prima di tutto, sono le query di selezione semplice. E già il termine ci rassicura. No? Allora, le query di selezione semplice rispondono alla domanda o alle domande. Chi sono quali sono ecco la scorsa settimana non so se il signore che me l'ha chiesto c'è anche questa oggi. Qualcuno mi ha chiesto, ma non ci sono dei manuali da comprare da qualche parte che ti spiegano? Cioè, e la mia risposta fu sì, se voi andate in qualsiasi libreria, un manuale di Access lo trovate sicuramente. Il problema, se vuol parlare, è che il manuale di Access inizia con usare Access, ma non i concetti. Io in questo corso cerco di puntare molto sulla parte concettuale. Poi se volete comprare un manuale di Access, può essere sicuramente un ottimo aiuto dal punto di vista pratico. Ma ad esempio questa cosa il manuale non me la dice. Io se volete l'uno e l'altro. Uno e l'altro sarebbe l'ideale. Perché uno ha i concetti qua e poi su come fare nella pratica se li guarda a casa. Però l'importante è il concetto, perché uno può anche imparare la query. C'è tutta la progettazione concettuale, esatto. Logica, lo schema IR. Esatto. Porto ancora altro che dire come si arretta. Non ho proprio il libro, eventualmente faccio la scansione se so. Ah, fantastico. Addirittura sarebbe ideale. Ok, quindi la query di selezione semplice mi risponde a queste domande qua. Quindi io dovrò chiedere al mio database quali sono tutte le persone che abitano a Roma. Devo fare una query di selezione semplice. chi sono tutte le macchine con numero letterario che inizia con H, dovrò fare una query di selezione semplice. D'accordo? Va bene, in realtà semplice o parametrica. Sì, nel senso che, vabbè, questa poi è una sfumatura che vedremo più avanti. Mentre nella semplice metto, non fate scrivere, tanto quello vedremo nella pratica. Mentre nella semplice io metto il parametro, lo imposto una volta io e non lo posso più cambiare, non è proprio vero, ma diciamola così. Nella parametrica il parametro lo metto generico e lo chiedo di volta in volta all'utente. Però questa è una sfumatura, la vedremo poi nella pratica alle prossime lezioni. Chiamiamole per il momento genericamente semplice o parametrica. Chi sono e quali sono? Poi ci sono le query di calcolo. Le query di selezione semplice o parametrica per chi utilizza Excel non sono nient'altro che i filtri. Chi di voi ha confidenza con Excel, le query di selezione semplice sono i filtri. Se voi avete utilizzato Excel, con Excel io vado a fare un filtro e gli dico in questa colonna, che è la colonna della provincia, sceglimi solo TO e GE, e lui gli dà tutto l'elenco sottostante ma con la provincia Torino o Genova. Okay. Per cui gli sto chiedendo chi sono, quali sono i clienti, i fornitori che abitano Torino anziché a Genova. Le query di calcolo, vabbè, lo dice la parola stessa, mi servono, aggiungono dei campi calcolati. E in Excel è la stessa identica cosa, cioè in Excel è come se io avessi una tabella con nome e data di nascita, quindi Vittorio, data di nascita, e volessi calcolarmi l'età anagrafica. Quindi l'età sarà uguale, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi vuol dire aggiungere un campo in più, ma non nella tabella, perché non ha senso mettere nella tabella, poi lo vedremo più avanti, l'età di una persona, perché l'età cambia, oggi è una, un'altra cosa sarà un'altra. Praticamente sarebbe il calcolo dell'età, cioè a fronte di una data di nascita mi vado a calcolare e faccio la differenza tra la data di oggi e la data di nascita, e quello mi calcola l'età della persona. No, prendo... facendo con la formula adesso, va a Excel e va sempre la data aggiornata. Esattamente, l'età aggiornata. L'età aggiornata. Esattamente. Analogamente, le query di calcolo in Access fanno questa cosa qua, quindi a fronte di una tabella con 10 colonne, mi creano un'undicesima, una dodicesima, una tredicesima colonna con un calcolo all'interno. D'accordo? Poi ci sono le query di aggregazione. Ora, una delle maggiori difficoltà che gli utenti fanno è cercare di fare un grosso distinguo tra quelli di selezione semplice e quelli di aggregazione. Cioè, le query di aggregazione rispondono alle domande: quanti, attenzione che quanti è molto diverso da quali, quanti sono ora, se io vi chiedo quante sono le persone che in questa stanza abitano a Moncalieri e vi chiedo chi abita a Moncalieri, siamo d'accordo che sono cose nettamente diverse. Ecco, gli utenti faticano tantissimo a tenere queste due cose separate. Sebbene nel parlato sia molto facile capire che sono due cose diverse, su ACES uno fa difficoltà, su ACES così come su Excel in realtà, fa difficoltà a capire che in un caso si usa uno strumento, nell'altro si usa un altro strumento. Uno ti dà i numeri, l'altro ti dà le persone. Uno fa un'aggregazione, l'altro invece fa il dettaglio. Quindi quanti sono, quale è il totale di quindi che ne so, qual è il fatturato totale dell'anno 2011? Qual è la spesa totale del mese di aprile? Se invece poi voglio sapere tutte le voci del mese di aprile, vado a fare una query selezionale semplice e gli dico quali sono le spese del mese di aprile? Le aggregazioni sono il Groupby. Pardon? Il Groupby è la stessa aggregazione. Mi è sfuggito il soggetto. Il Groupby. Ah, il Groupby, sì. In Excel l'aggregazione è SQL. In Excel l'aggregazione è la tabella pivot. La tabella pivot, che come avevo detto nella lezione scorsa, ve lo riconfermo questa lezione, faremo e sarà uno degli argomenti di Excel che tratteremo. Per la scuola, per chi non c'era, a vedere per questo corso è incentrato su ACES. Un paio di argomenti di Excel comunque li vado a fare, vuoi perché mi aiutano a capire alcuni concetti di ACES, vuoi perché comunque Excel effettivamente si usa spesso. Infine, la query a campi incrociati e in realtà anche la query a campi incrociati è una sorta di tabella pivot. Per ora scrivete così e poi più avanti vedremo, ne apprezzeremo le differenze. Ecco che queste sono le sostanziali query con le quali andremo a lavorare durante l'anno. Ora vi dico subito, le query di selezione semplice sono relativamente semplici, nel senso che per verità c'è da capire un po' il discorso dell'AND, dell'OR, c'è da capire il discorso del like, not like, però voglio dire, è una questione di sintassi. Una volta che uno ha capito il concetto, va spedito. Le query di calcolo senza dubbio ci porteranno via un bel po' di tempo, perché non sono banalissime. Le query di aggregazione sono velocissime. Cioè, una volta che uno ha capito il concetto, le query di aggregazione si fanno in un largo. Io solo capito il concetto. Dove è che sta poi la parte difficile? È mettere insieme tutte queste cose. Perché lì arriva la parte concettuale. Ah ok, so che c'è la query di aggregazione, so che c'è la query di selezione, so che c'è la query di campi incrociati, e la parte più difficile è capire che le si posso mettere tutte quante in join per tirare fuori un'unica tabellone. Allora lì sarà la parte sulla quale lavorare nel mondo. Ok? Comunque questa è la parte concettuale. Sì, però l'anno scorso avevamo fatto le campi incrociati? No. No, però comunque non sono. Tra tutte sono quelle meno peggio. Ok? signori? Di fare dei report, cioè la stampa. Ti ho detto, perché Access, quale sarà anche lo slogan per le prossime lezioni di qualcuno, perché Access al posto di Excel? Senza dubbio il primo motivo sono i report, cioè la stampa. La stampa su Excel è difficoltosa. Quando le tabelle di Excel sono grosse e sono difficili da gestire. Perché, abbiamo detto la scorsa settimana, bisogna iniziare a far filtrare, a nascondere colonne e ci si inventa le cose più raccapriccianti. Bisogna essere con Access, una volta che uno ha impostato il report, difficile un pochino l'impostazione, cioè non difficile, un po' noiosa l'impostazione, ma si riescono a ottenere delle stampe ottime e sempre uguali. La seconda è l'organizzazione dei dati. Questo è un concetto che abbiamo anticipato la settimana scorsa e che vi ripropongo questa settimana. Quello di organizzazione dei dati. Organizzazione dei dati vuol dire o una serie da archiviare una serie di fatture. Io nel corso parlerò di fatture, ma non perché per qualche motivo, perché bene o male abbiamo tutti noi avuto a che fare con le fatture, sia che le mettiamo, sia che siamo andati a comprare i mobili all'IKEA, di fatture ne abbiamo parlato. Quindi se io sono il segretario che va a inserire una serie di fatture anziché le bolle d'accompagnamento, anziché i libri, anziché qualcosa, la disposizione classica di un foglio di Excel è la seguente. È sempre un'idea di massima, poi ognuno si organizza come vuole, però ci sarà il file anno 2011 ed il file anno 2012. Ogni file avrà il foglio gen, feb, maggio e ovviamente idem qua sotto. Ogni foglio avrà le intestazioni cliente, importo e così via dicendo. Ora, così come si è detto la scorsa settimana, questa organizzazione dei dati su Excel alla lunga porta delle difficoltà dal punto di vista del trovare le informazioni, perché le informazioni vengono a sparpagliarsi. E allora in Access che si fa? In Access tutta questa roba qua viene messa in una tabella. Quindi non si avranno più delle tabelle organizzate per anno anziché per mese. Qua sembrava una tabella. In realtà non una singola tabella, ma anche qua più tabelle. Allora uno potrebbe dire, vabbè, ma metti più tabelle, se ho più tabelle in Excel, ho più tabelle in Access, tanto vale che non usare in Excel. E no, perché la differenza è sostanziale. Mentre in Excel io solitamente organizzo per ordine cronologico, tipicamente la differenza è per ordine cronologico. Tipicamente, in realtà non è bellissimo, perché per esempio se io gestisco una biblioteca, non gestisco in ordine cronologico i libri quanto di tipologia. Però è un'organizzazione, come posso dire, più pratica, di praticità. Cioè le fatture mi arrivano di volta in volta nel tempo, per cui io le organizzo cronologicamente. I libri mi arrivano come tipologia differente, per cui io le organizzo per tipologia. Quindi in Excel è un'organizzazione di tipo pratico. Organizzazione di tipo pratico. Quindi per le fatture sarà un discorso cronologico, per i libri di una biblioteca sarà per tipologia. Quindi avrò il file storia, il file geografia, e dentro il file storia avrò i fogli, la storia dell'Ottocento, la storia del Novecento, la storia del Settecento. In Access invece la differenza tra una tabella e l'altra è di tipo concettuale, quindi organizzazione per concetto barra argomento. Allora vediamo di esplicitare questo concetto barra argomento. Quindi cerchiamo di capire come si arriva alla divisione tra più tabelle. Allora, mentre in Excel abbiamo detto, perché chi è che mi fa venire voglia di organizzare in tante tabelle diverse? Se abbiamo detto che è difficile poi cercare i dati, perché sento l'esigenza di organizzare in tante tabelle diverse? Quello è quello che facciamo bene. Quello è quello che si vuole da un computer, ma in realtà l'esigenza non è quella. Per essere vincolato in Excel a mettere più tante tabelle. No. Per ridurre i gruppi. Per ridurre i gruppi. Sì, è una delle regole che i romani praticavano già da 2000 anni fa, divide et impera. Si fa esplicitamente perché tante informazioni distraggono. Per cui uno ha la tendenza a suddividere, perché in questa maniera qua ha la sensazione che di primo acchito è corretta, ma poi nel tempo si rivela un boomerang, ha la sensazione di riuscire a gestire meglio i dati. Dico bene? Quindi scrivetelo. Chiaro che chi non ha questa esperienza nella vita lavorativa non la sente come esigenza. Ma credetemi, appunto, la signora l'utilizza, me lo conferma. Utilizza il lavoro in atto. Sì, assolutamente. Come dicevamo. Quindi in Excel si divide in più fogli per dominare meglio i dati, perché si ha la sensazione, dividendoli, di riuscire a gestirli meglio. In Excel si divide perché si ha la sensazione di riuscire a gestirli più facilmente. Cioè io ho le fatture di gennaio, le divido da quelle di febbraio, così sono sicuro che lavoro o sulle une o sulle altre. Ho questa sensazione di riuscire a gestirle più correttamente. In realtà questo è vero in una prima battuta, ma alla lunga si ritorce contro, perché non riesco più a trovare le informazioni. Quindi questa è l'esigenza su Excel. Qual è invece l'esigenza su Access? Excel, ma non voglio... No, sono essenzialmente due. E sono? La ridondanza dei dati. Access a dividere in più tabelle. Quindi si preoccupa di non creare ridondanze, di non creare... Sì, quello è il problema che c'è. Esatto. In realtà è un problema che c'è anche in Excel. Solo che in Excel io cerco di arginarlo dividendo in n fogli, n file. In Access invece dice, no, aspetta un secondo, allora c'è questo problema, lo risolviamo in maniera concettualmente differente. Cerchiamo di capire che cosa sono queste due problematiche. E facciamoci una bella tabella. Macchinetta del caffè e fornitura. D'accordo? Dopodiché mi arriva la Pluto S.p.A. che è il numero 347333, ha sede in via Cavour 60, mi spende 6.000 euro per cialde e anche delle forniture. Ho bisogno di un caffè, si sente? Cialde e forniture. Ora, il nostro contapesino potrebbe continuare così senza grossi colpi a ferire. E fino a qua l'esigenza di avere un Excel anziché un Access non si sente granché. Il problema quando arriva, se di problema si può parlare, perché al contrario per la mia azienda è un vantaggio. Quando? Chiaramente vi immaginate di avere decine e decine di record. La Pluto SRL si ripresenta. E allora il problema qual è? Che devo andare a reinserire. E allora devo andare alla mia meta. Pippo SRL, la Pippo SRL stavolta ha cambiato numero, questa volta aveva un 328 perché è passato ad un altro operatore, 345, abita sempre in via Roma, abita insomma, ha sede sempre in via Roma 50, mi ha preso 2.000 euro di tazzine. Si ripresenta due giorni dopo perché si era dimenticata una cosa, la PIFO SRL 328 345. Nel frattempo sto disgraziato, ma ha anche cambiato sede e si è trasferito in via Alessandria 10. Una volta mi prende 1.000 euro di tovaglioni. Oh, va bene, poi ci sono le sedie, non anche distribuire. Ora, signori, capite? Un grosso problema. Allora, da un lato la ridondanza. Perché ridondanza? Vabbè, io qua li ho volutamente un po' mischiati, ma qua. La ridondanza sta nel fatto che queste informazioni, supponiate che il caso migliore, questa vita qua non cambi mai né il numero di telefono né indirizzo di residenza, indirizzo di sede, queste informazioni si ripetono tutte le tante volte. Allora, l'utente di Excel, Forello, che fa? L'utente di Excel non c'ho voglia di dire tre volte, che fa? Copia e incolla la migliore, nella peggiore, in una delle ipotesi, oppure ancora probabilmente dice no, è qua, e se poi questo mi cambia la ragione sociale anziché il numero di telefono non è niente, mi tolgo il problema. Sì, allora io sì che si ragiona probabilmente. Perché l'utente di Excel, dopo la seconda volta che gli capita la casistica che il cliente ritorna, dice, caspita, ma questo qua, se mi cambia il numero di telefono, che faccio? Una volta ce l'ho in un modo, una volta ce l'ho nell'altro. Sai che c'è? Non lo metto proprio, non mi tolgo il problema. E l'utente di Excel ragiona così. Ma è giusto, perché è un grosso problema questo qua. Quindi, da un lato, il problema è la ridondanza, cioè dei dati in realtà in questo caso specifico due campi. Esatto, sì, il campo. Ah, pensate al caso realistico dove c'è il numero di telefono, indirizzo, città di residenza, provincia di residenza, bla bla bla, i campi magari sono 3, 4, 5, 6. Quindi il problema è la ridondanza intesa come duplicazione delle informazioni. Il gesto. No, ce l'ho. Ridondanza intesa come duplicazione delle informazioni. Ora, lo ripeto, in Excel si tende a non mettere le informazioni. In Excel si tende a non mettere le informazioni proprio perché ci si accorge del problema. O, a mio parere, forse anche peggio, di racchiudere le informazioni in un altro foglio. Un altro foglio? Sì. Cioè uno dice, vabbè, le informazioni qua invece di rimetterle tutte le volte le metto in un altro foglio. Bravo Face. Ma prima di tutto non hai un modo per vedere se Pippo SRL la metti magari due volte. Per sbaglio. Uno dice, vabbè, controllo. Per sbaglio. Non te ne accorgi. Scrivi questa cosa qua. Quindi o non mette le informazioni o le mette in un altro foglio. Ma per sbaglio può inserire la piccola sorella due volte. Ora, al finale, se io posso mettere in una tabella a parte, e infatti è proprio quello che si fa, ma in ACES non posso inserire due volte la piccola sorella. Perché? Perché c'è la chiave primaria. Sai, chiave primaria partita IVA, inserisco la prima volta la PIP SRL, quando la vado a inserire la seconda volta il computer mi dice no, c'è già, e un concetto che mi serve. E quindi devo aggiornare i dati? No, non è che c'è niente di aggiornare i dati, il concetto è, allora, ridondanza dei dati, l'utente se ne accorge, è un problema. Allora cosa dice? Strada 1, non li metto i dati, cioè mi trovo un problema, allora dice non metto i dati se non se ne fanno più. Strada 2, prendo quei dati lì, che virtualmente si potrebbero ripetere n volte, e li inserisco in un altro foglio. Va tutto bene, li metto una sola volta in quel foglio lì e va tutto bene. Ora, in realtà poi sorge il problema che gli utenti di Excel, non so quanti utenti di Excel sappiano riconciliare questi dati, perché ci vuole già la possibilità di fare un cerca verticale, ma lì gli utenti di Excel iniziano a fare OIS. E questo è un altro concetto. Ma il concetto fondamentale è che in Excel la PIP SRL nell'altro foglio io posso inserirla anche due o tre volte. Ripeto, per errore, perché magari non l'ho controllato bene, quel giorno lì mi sono dimenticato di ordinare in ordine alfabetico, non vedo che c'è già una PIP SRL e la vado a inserire due volte. Per cui ritorno al problema prima, addirittura amplificato dal fatto che sono convinto che la PIP SRL ci sia una volta sola, in realtà c'è due volte. E se questa nel frattempo mi ha cambiato numero di telefono e indirizzo di residenza, chi lo sa se è quello giusto uno o l'altro? Spiego? Questo problema qua in ACES, ed è quello che vi invito a scrivere, è risolto in automatico dal concetto di chiave primaria. Quindi questo problema in ACES viene risolto automaticamente dalla chiave primaria. Scusa, chi può essere è una vasta data, insomma. Chi può essere ha la sede e due filiali, stessa partita di IVA. Beh, in realtà tu hai fatto il corso l'anno scorso, dovresti sapermi rispondere a questa domanda. Faccio un'ulteriore tabella, una a molti. Quindi ci sarà cliente, filiale, due tabelle. Comunque questo è un concetto poi... D'accordo, signori? Per chi non ha proprio esperienza con Excel, assolutamente sì. Cioè io cerco di fare un parallelismo con Excel proprio per farvi capire i limiti di Excel nella gestione dei dati. Se uno non ha mai usato Excel, no, adesso mi ritrovo a usare Excel per la prima volta. E quindi è come al solito andare al liceo senza aver fatto le scuole elementari. Ma no, il concetto è quello che dicevamo la settimana scorsa, cioè Excel ha il vantaggio di essere immediato, ha lo svantaggio che poi questa immediatezza si trasforma in una sorta di boomerang che torna indietro. Quindi o uno sa esattamente che cosa fa, oppure ha dei grossi problemi in quello che sta facendo. Proprio oggi, prima di uscire dall'ufficio, mi sono ritrovato con una collega che mi ha chiesto appunto la mano in Excel. Questa poveraccia, noi nell'azienda in cui io lavoro, lavoriamo con agenti e subagenti. Cosa avete presente? Se avete mai andato a fare una polizia assicurativa, sapete che si va in agenzia e gli agenti possono avere dei subagenti sotto. Ora, agenti e subagenti hanno un codice, per cui c'era la colonnina agente 22240 con la ragione sociale e il subagente, che era, che so, 35-44. Ora, se mia collega, ora, poi qua c'erano però tutti gli agenti e subagenti, e per ogni agente, se è un subagente, si metteva 33 da una parte e 33 dall'altra. Quella voleva dire che è un agente, punto e basta. Se è anche un subagente, c'era per il numero 22 e nei numeri qua sotto. Ora, il problema di questa poveraccia era... E ma caspita, qua mi metti la gente con la sua ragione sociale e qua mi metti soltanto il numero. Che faceva? Copia e incolla. 35 se andava a vedere qua sotto dove era il 35, incolla. 44 se andava a vedere 44, incolla. Io come attore sono andato a chiedere, andiamo a prenderci un caffè, quando ho visto questa roba mi faccio, cosa stai facendo? Quindi il problema dell'utilizzatore di Excel è che proprio per questa sua immediatezza uno è portato a dire, ma se non è Excel risolvo tutto, e però non impara però un sacco di cose. E va a fare un certo verticale, e con un certo verticale quello che lei stava facendo era tipo un'ora, gliel'ho fatto io, e ho avuto senza possibilità di sbagliare, in veramente un secondo, no? Perché va a fare un certo verticale, il doppio clic, tira giù e fa tutto. Quindi il problema di Excel è quello, che questa sua immediatezza fa in modo che se tu sai fare la formulina 5 più 3, a quello vuol dire che ne sa. Per cui non ci sono corsi di aggiornamento, perché in Italia corsi non se ne fanno. Poi anzi tagliano tutto sull'istruzione, tagliano in modo serio, per cui figurati se le aziende invece non sono formazione. L'informazione non se ne fa. L'utente, una volta che dice, ah, so fare a 1 più di 1, il collega gli dice, bravo, te ne sai, per cui l'utente dice, io sono un dio di Excel, e quindi però poi quando arrivano queste problematiche qua, uno perde le giornate in cavolata. Quindi non è necessario sapere Excel. Secondo me è interessante far capire quali sono le problematiche da una parte, per cui uno le può sperimentare, e quando si troverà nella situazione di sperimentare quelle problematiche lì, dire, ma se potessi usare Excel, Access non sarebbe meglio? La risposta non è solo dice sì. Chiaro che qui Access ha il problema di progettazione. Sono le due cose da bilanciare. Scopo di questo corso appunto la progettazione. Ripeto, Excel e Access sono separati, cioè non è necessario sapere Excel. Il paragone con Excel lo faccio perché molto probabilmente o uno ci si trova già o ci si potrebbe trovare. Quindi la ridondanza, ripeto, è questa roba qua, è ripetere i dati. O non si mettono oppure si rimettono su un'altra tabella. La ridondanza porta anche ad un problema collaterale, che lo vedete lì, anche alla inconsistenza dei dati. Quindi una conseguenza della ridondanza è l'inconsistenza. Cioè, che vuol dire inconsistenza? Che da una parte il numero era uno, dall'altra era l'altro, per cui uno non sa. Sì, poi uno mi potrebbe dire, vabbè, ma c'è la data della fattura, per cui vado a vedere la data di fattura, vedo qual è l'ultima, allora capisco qual è il numero di telefono. Sì, ma no, è laborioso. E comunque è un'inconsistenza dei dati. Quindi il fatto che un dato da una volta all'altra può cambiare o addirittura lo posso sbagliare. Faccio copia e incolla, mi sbaglio a copiare la riga, gli vado a fare copia e incolla del numero della residenza di un altro cliente. Qual è l'altro problema di cui parlavamo, cioè la proliferazione dei dati? In questa struttura qua l'osservatore più attento mi potrebbe dire, vabbè, bello tu, mi hai messo macchina del caffè e fornitura, ma qual è la macchina del caffè che mi ha preso? E quale fornitura l'ha preso? Fornitura di che? Allora metto i vari prodotti. Per cui non organizzo la tabella così, ma dico... Set codici. E questa è l'altra porcata che fanno gli utilizzatori di sé. Prodotto 1, prodotto 2, prodotto 3. E uno dice, ma tanto la mia azienda vende solo 3 prodotti. Allora magari che ne so, faccio X, X, X... X, X, 13, ok? E il problema qual è? È chiaro che se ho la fortuna, vedete, che la mia azienda vende solo 3 prodotti, sono a posto, me la posso ancora calare. Ma se poi la mia azienda si espande e inizia a vendere prodotto 4, prodotto 5, prodotto 6, prodotto 7, prodotto 10, diventa una proliferazione di campi. E quindi i campi, le colonne, iniziano a crescere a dismisura. E questo è un altro enorme problema dell'utilizzatore di Excel. Che l'utilizzatore di Excel inizia, il cliente si inizia sempre così, no? Arriva il capo ufficio, capo reparto, capo settore, dice, senti, mi fai questo schemino veloce dopo 2 minuti, quindi si proprio solo l'indirizzo al telefono. E questo te lo fa. Glielo dà, allora. C'è chiaro, io dicevo, vabbè, se mi dite queste altre 4-5 informazioni, tu gli fuori, ma vedo che, ma è difficile per queste 100 informazioni. E poi ciò che fa, inizia a fare un tabellone della Madonna. Anche il capo gli dice, vabbè, stampa. E qui inizia la bella finestra che si dedicarci. Oh, mi butto o mi butto? E il problema fondamentale è questo, cioè in Excel queste cose qua iniziano a crescere voluminosamente in lunghezza e in larghezza e uno inizia a dire che faccio. Va bene signori? Quindi i due problemi fondamentali che portano alla divisione in tabelle e sottotabelle sono questi. La ridondanza da una parte, quindi la ripetizione di campi, che porta in maniera collaterale all'inconsistenza, e alla proliferazione dei campi. Che è un altro enorme problema. Ad entrambi i problemi si risponde dividendo in tabelle e sottotabelle. E la risposta ad entrambi i problemi è la divisione in tabelle. Questo è in Arches. Ma in realtà, a dirla tutta, andrebbe bene anche concettualmente in Excel. Il problema però qual è? È che manca la chiave primaria e che ci sono tutta una serie di problemi. In teoria si potrebbe fare anche in Excel. Diciamo che in Arches però ho maggiori vincoli, quindi permettono di andare un pochino più sul sicuro. Che non bisogna sbagliare, che non esattamente. D'accordo? Perfetto. Posso cancellare? E allora, vi ho raccontato il perché si divide in più tabelle, ma le più tabelle si dividono per, abbiamo detto, argomenti. Nel caso che abbiamo fatto precedentemente, gli argomenti / concetti di cui abbiamo parlato, quali erano? Erano il, sto parlando dell'esempio di poco fa, il cliente, quindi tutti i dati del cliente, o dato che parliamo di tabelle è meglio dire clienti, perché le tabelle abbiamo detto la volta scorsa è meglio parlare, chiamarle sempre a plurale, quindi tutti i dati dei clienti, tutti i dati dei prodotti, e anche lì, signori, vedete che nel mio file di Excel io devo mettere prodotto 1, prodotto 2, prodotto 3, ma se già il prodotto 1 erano dei mobili con 10 colori diversi, devo fare 10 colori diversi, oppure anche lì ingegnarmi per trovare una soluzione. E qua allora la tabella prodotti con codice, descrizione, colore, tutto quello che vuoi. I prodotti e le fatture, con il suo bel importicino, la sua bella datina, la sua bella, quello che vuole. Questi sono gli argomenti della tabella precedente, cioè la tabella precedente in ACES io andrò a spallare in tre tabelle diverse ordinate per argomenti, clienti, prodotti, fattura. Quindi potrebbero passare anche due tabelle, per esempio nella tabella azienda, telefono, indirizzo, descrizione, e poi nell'altra tabella prodotti, importi, no? E il motivo è relativamente semplice, nel senso che se tu provi a pensare, ma è giusta come domanda, e a me fa piacere che mi facciate queste domande, perché almeno se io faccio nell'altra tabella importi e prodotto, ora capisci bene che se in una fattura questo signore mi compra 5 prodotti diversi, che faccio? Allora, o li vado a spalmare in colonna, ma ho la proliferazione, o scrivo prodotto 1, prodotto 2, prodotto 3, e l'importo qual è? È quello totale o è quello del prodotto? Posso dire totale, perché sarà sempre l'importo della stessa fattura, o quello del singolo prodotto, però poi se l'importo di quel prodotto cambia nel tempo, ok? Perfetto. E poi proprio è un discorso logico, cioè se voi iniziate a dividere proprio concettualmente le cose, il problema che oggi posso risolvere con due tabelle, che magari mi potrebbero anche bastare perché è giusto, è fondamentale questa obiezione. Cioè il discorso è, se voi vi abituate a ragionare per argomenti, il problema che oggi potete risolvere anche con una tabellina, domani magari ne servono 3, magari domani ne servono 10. Se voi le avete già divise, vi basterà aggiungere un campo in una di quelle 10. Se voi invece ce l'avete tutto insieme, andare poi a dividere un secondo momento diventa più vostro. È chiaro, signore? Ok, quindi, ricapitolando. Abbiamo visto. Perché dividere? Abbiamo detto ridondanza e proliferazione. Abbiamo visto la linea guida della divisione, cioè il concetto barra argomento. Ci rimane da vedere, come dire, come. E questo è il concetto che la prossima lezione ci porterà al discorso fondamentale delle relazioni. La prossima settimana diremo: ok, ho n tabelle, le devo mettere in relazione tra di loro, come? Con una 1 a 1, una 1 a molti, una molti a molti. Ora, la prossima settimana io direi: o continuiamo con questi discorsi qua, oppure iniziamo a fare qualcosa a livello pratico sul computer, magari inizio a fare vedere in pratica un pochino quello di cui stiamo parlando. Ce la giochiamo la prossima settimana. Anche quest'oggi vi dico: studiate, e se avete dei dubbi la prossima settimana, all'inizio della lezione esponetemeli, così vi chiariamo. Buon weekend lungo, ci vediamo in arrivo.